Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione di cultura e attualità concepita come se gli animali contassero qualcosa e avessero una loro dignità. Questo è un punto di vista che oggi viene osservato spesso con sospetto, ma che potrebbe avere, secondo noi, un grande futuro, sempre che non prevalgano la diffidenza e il peso della tradizione. Noi, nel nostro piccolo, lavoriamo per cambiare questo stato delle cose. Ci proviamo. Set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Giuseppe, oggi tocca a noi. Ci siamo finalmente per una settimana liberati di Camilla, che è la conduttrice abituale di questa trasmissione, e siamo liberi. Wow! Come si dice, è il caso di dirlo, visto la trasmissione che facciamo, quando il gatto non c'è, i topi ballano, e in questo caso i topi siamo noi. Due topastri, e io sono sicuro che non perderai l'occasione, visto che ti sei liberato del gatto Camilla che ti angariava. Confessa, che cosa hai in mente oggi? Beh, non mi posso sbilanciare tanto perché tanto ritorna, e quindi però proviamo a dare un taglio un po' diverso, e altrimenti se cambiamo troppo poi dopo saranno guai. Nella puntata di oggi ci sarà spazio per un libro d'autore, della musica ribelle e notizie dalla galassia animalista per accompagnarvi in questo caldo agosto. Cominciamo parlando della Toscana. All'inizio di quest'anno la nostra redazione si è impegnata molto in una campagna di denuncia e di contrasto rispetto a una legge che la Regione Toscana ha approvato per dare via libera a una strage senza precedenti in Italia di cinghiali, caprioli e altri ungulati. I nostri ascoltatori si ricorderanno: centinaia di migliaia di animali saranno uccisi in Toscana nell'arco di 3 anni grazie a un calendario venatorio ad hoc. Questa eliminazione di massa ha fatto piazza pulita di aree protette, giorni di pausa, mesi di divieto. Le squadre di cacciatori autorizzati potranno lavorare, diciamo così, quasi a tempo pieno, sull'onda di una presunta emergenza ungulati, alla quale si è deciso di dare una risposta che in apparenza è ovvia: ucciderli per ridurne il numero. È una risposta di guerra, e noi sappiamo bene che è una risposta che nemmeno potrà raggiungere i suoi obiettivi, visto che gli ungulati rispondono naturalmente, spontaneamente alle stragi, aumentando la propria capacità riproduttiva e migratoria. Quindi il problema è destinato a riprodursi. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di contrastare questo provvedimento e abbiamo trovato sulla nostra strada molti alleati importanti, uomini e donne di cultura, artisti, intellettuali, che hanno firmato un appello ai vertici della regione per convincerla a rinunciare a quella strada così cruenta. Purtroppo non è servito. L'uso della violenza e il disinteresse per gli appelli alla moderazione e al rispetto della vita non hanno fatto breccia nel palazzo dei governanti toscani, che hanno appena autorizzato un altro piano di abbattimento di massa. Stavolta è riguardante le volpi. Se ne autorizza l'uccisione di 4.000 ogni anno per 3 anni. Perché proprio 4.000? Difficile saperlo, se si considera che la stessa regione toscana ammette di non disporre di un censimento attendibile e dice nei testi che hanno accompagnato la legge: non esistono dati scientificamente attendibili relativi al calcolo di densità della volpe né test di significativa statistica. Inoltre c'è scritto: i dati dovrebbero avere un alto grado di precisione, di standardizzazione, che nel nostro caso non sono ancora stati raggiunti. Ma evidentemente niente importa, se non agire secondo la vecchia logica dell'emergenza, vera o presunta che sia, e assecondando gli istinti primari di violenza, di cui i cacciatori sono gli interpreti naturali, ma che sono graditi, evidentemente, anche nelle stanze del potere. Il tutto mentre la Coldiretti scende in piazza, è successo nei giorni scorsi a Firenze, contro gli animali selvatici, indicati in un dossier come responsabili di danni così gravi che metterebbero in crisi il settore, il quale, per la verità, sembra in difficoltà soprattutto per ragioni di mercato. Ma nel mirino ci sono finiti gli animali, escludendo in partenza di compiere un percorso diverso, che preveda un esame attento e non rabbioso e preconfezionato dei problemi e tenga nella dovuta considerazione la dignità degli animali e il criterio della giustizia. Purtroppo questo è il modo con il quale nel nostro paese oggi ci si rapporta agli animali selvatici, e quindi lo slogan che avevamo scelto per la campagna contro lo sterminio dei cinghiali si conferma amaramente azzeccato, perché è in grado di cogliere certe trasformazioni politiche in corso. Lo slogan era «Toscana rossa, di sangue». Dopo questa notizia non proprio edificante, forse è il caso di dare una notizia un po' più frizzante, più allegra. Che ne dici? Va bene. Non so se hai letto, Giuseppe, ma dice che a Downing Street, che è la residenza del premier britannico a Londra, anzi della premier britannica, visto che Cameron è inciampato nel suo referendum, dice dunque che è in corso una guerra fra gatti. Sembra che Larry, il felino che non ha seguito Cameron nel Brexit, abbia poco gradito l'arrivo di un altro felino che si chiama Palmerston, il quale, si dice, pare che sia stato portato lì a Downing Street per volere del Foreign Office, il Ministero degli Esteri. Non si sa perché sia stato portato, forse per rafforzare le misure di sicurezza. Ho letto che hanno chiamato un consulente specializzato per capire le ragioni dei litigi. Il responso è stato che i due gatti sono in guerra per il territorio. Non che ci volesse l'esperto per capirlo, ma vedrai che la verità è un'altra. Larry vuol far capire alla May, che fa rima con miau, e anche all'intruso chi comanda in casa. E prima di loro mi sa che l'aveva dovuto capire il povero Cameron. Forza Larry! Vai! Ogni anno da 17 anni il rapporto zoomafia della LAV ci offre un quadro impressionante dei crimini organizzati contro gli animali. Nei giorni scorsi è stato presentato appunto il 17esimo rapporto, che è curato da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell'osservatorio zoomafia della LAV. Basta scorrere i vari paragrafi di questo rapporto per rendersi conto di quanto gli animali siano vittime di abusi e di forme criminose di sfruttamento a fini commerciali. Prendiamo i combattimenti. Nel 2015, si legge nel rapporto, c'è stato un aumento del 64% dei cani sequestrati e del 110% delle persone denunciate. C'è poi il capitolo delle corse clandestine, dei cavalli, quindi con ippodromi e scommesse collegate. In questo caso, nel 2015, ci sono stati 11 interventi delle forze dell'ordine, 2 corse clandestine bloccate, 13 persone denunciate, 9 persone arrestate, un bilancio complessivo dal 1998 al 2015 compreso indica che in tutto sono state denunciate per le corse clandestine di cavalli 3.366 persone, con il sequestro di 1.253 animali. Un altro capitolo riguarda il traffico internazionale di fauna e il bracconaggio. L'Italia si è confermata essere un paese importante per il commercio di prodotti come borse, cinture, portafogli ottenuti con pelli di animali protetti. Il bracconaggio, secondo i dati della LIPU, uccide ogni anno 8 milioni di uccelli e sono stati abbattuti l'anno scorso anche specie rarissime come il nebbio reale e il capovaccaio, oltre che 5 ibis sacri. In aggiunta si contano circa 100 lupi morti per cause non naturali. Un altro capitolo è quello dei canili, Canili per delinquere li definisce il rapporto LAV. Nel 2015 sono stati sequestrati 11 canili e strutture con 1.500 cani e 200 gatti e 13 persone denunciate per reati che vanno dalla truffa al maltrattamento all'esercizio abusivo della professione veterinaria. E anche qui è solo uno spicchio della realtà di queste strutture, spesso allestite esclusivamente a fine di lucro e non per proteggere in qualche modo cani e gatti. Meno conosciuto è il capitolo della filiera del pesce. Il mare, si legge nel rapporto, viene saccheggiato da organizzazioni dedite alla pesca di frodo con esplosivi, la raccolta di datteri ricci di mare destinati al mercato clandestino di ristoratori compiacenti. C'è poi quella che il rapporto LAV definisce la cupola del bestiame, altro capitolo poco conosciuto, ma negli allevamenti si pratica in maniera massiccia l'abigeato, il furto di bestiame. Può sembrare incredibile, ma ogni anno scompaiono nel nulla circa 150.000 animali. Ed è un reato questo del furto di bestiame, che è un vero business per la criminalità organizzata. La sintesi che si può trarre da questa diffusione così importante della criminalità legata allo sfruttamento degli animali può essere espressa con le parole di Ciro Troiani, il quale scrive che è sempre più evidente la presenza di una sorta di affaristi zoomafiosi formati da imprenditori senza scrupoli e speculatori che creano sinergie scellerate con delinquenti, funzionari collusi e faccendieri, tutti uniti nell'interesse economico comune. La scarsa attenzione, aggiungiamo noi, che la nostra società riserva allo sfruttamento degli animali è complice di fatto di queste cupole criminali che lucrano sulla sofferenza degli animali. Un'altra notizia locale, quindi siamo in Toscana e riguarda il parco di Cavriglia, in provincia di Arezzo. È un parco e anche uno zoo, nel quale sono stati chiusi nel corso del tempo gli animali esotici più svariati. Nei giorni scorsi è stata portata a termine l'evacuazione di 18 macachi, quasi tutti nati e cresciuti nell'area a loro riservata. Questi macachi sono stati portati in Olanda, negli spazi che la ONG AAP, Rescue Center for Exotic Animals di Almere, dedica al recupero degli animali salvati da situazioni varie di detenzione e di maltrattamento. Il trasferimento ovviamente è stata un'operazione molto delicata, perché gli animali vanno sedati e poi trasportati per un lungo viaggio, e quindi questa operazione è stata osservata con apprensione e non è mancata infatti una polemica. La LEAL, che ha seguito questo progetto fin dall'inizio, ha criticato il comune di Cavriglia per non averla coinvolta in questa operazione. Del trasferimento si sono occupati i veterinari incaricati del comune e i tecnici di Animal Asia e speriamo che tutto alla fine vada in porto senza troppi danni e troppe sofferenze per questi poveri macachi che finora sono stati costretti a vivere in un ambiente angusto. Il parco di Cavriglia era un esempio della brutale incultura tipica dei decenni passati. Un luogo isolato ai margini del bosco nel quale erano state allestite gabbie e recinti per chiudervi animali più o meno esotici. Un luogo tristissimo di sofferenza e ingiustizia. Lo smantellamento del parco di Cavriglia quindi è una buona notizia, però restano lì lo struzzo, il bisonte e l'orso bruno. Sono tre individui soli e infelici. L'orso bruno è l'animale simbolo di questo parco, se ne è parlato molto anche sui media nei mesi scorsi, ha quasi 40 anni ed è impossibile trasferirlo perché l'età rende pericolosa l'operazione di anestesia che sarebbe necessaria per trasportarlo altrove e quindi è destinato a vivere i suoi ultimi anni in quel luogo. L'orso bruno era stato donato al comune di Cavriglia da una municipalità russa in segno di fratellanza al tempo dell'Unione Sovietica e questo è anche appunto un simbolo di una stagione per fortuna superata. Bruno purtroppo non potrà essere trasferito e così probabilmente lo struzzo e il bisonte, ma almeno sta diventando sempre più chiaro che luoghi come il parco di Cavriglia, per non dire degli zoo, non hanno alcuna ragione di esistere e ci riempiono di vergogna. Look up to the Anna Maria Ortese è una delle maggiori scrittrici del Novecento e di certo fra le più originali. Ha osservato e descritto il mondo con intensità e con attenzione alle storie e alle figure più periferiche. Ci ha dato magistrali ritratti della grande umanità di Napoli e ha dedicato pagine bellissime agli animali. Il consiglio di questa settimana è di Lorenzo Guadagnucci. Anna Maria Ortese ha attraversato la letteratura italiana del Novecento come una meteora. È stata un personaggio schivo, una scrittrice eccentrica per stile e per scelta dei temi. E tuttavia è annoverata fra gli autori più importanti del secolo scorso. Le foto degli ultimi anni ce la mostrano quasi austera, nascosta dietro gli occhiali scuri, con una specie di turbante a raccogliere i capelli. Potrebbe apparire da queste immagini fredda e distaccata, ma la scrittrice era invece capace di forti e roventi passioni. Si vede bene nel libro che l'editore Adelphi ha appena pubblicato, Le piccole persone, a cura di Angela Borghesi. È un libro che raccoglie gli interventi dell'Ortese in difesa degli animali, come recita il sottotitolo. Nel testo che dà il titolo al libro, la Ortese scrive: «Ritengo gli animali piccole persone, fratelli diversi dell'uomo, creature con una faccia, occhi belli e buoni che esprimono un pensiero e una sensibilità chiusa, ma dello stesso valore della sensibilità e il pensiero umano. Soltanto lo esprimono al di fuori del raziocinio o ragione per cui noi andiamo noti e ci incensiamo fra noi». Nei vari testi inclusi nel libro, l'Ortese prende spunto da brani letterari, come da fatti di cronaca, e affronta da par suo tutti gli aspetti della questione animale, gli allevamenti ai macelli, la vivisezione, l'uso nei giochi, la crudeltà per la crudeltà. Il suo è un punto di vista radicale che scava nel profondo delle cose e mette in discussione il senso dell'umano. Ma quale poi, viene da domandarsi, la qualità dell'uomo, scrive in un testo che tocca il tema della sperimentazione animale, così alta da sancire il suo diritto alla distruzione e comunque l'uso doloroso di tutte le altre creature. Francamente, non ne vedo nessuna. Si guarda l'uomo sotto ogni aspetto e si vede di lui una sola attitudine certissima: consumare e odiare qualsiasi cosa gli impedisca uno smodato consumo di qualche cosa. Intervento dopo intervento traspare tutta la sofferenza che Anna Maria Ortese vive giorno per giorno nell'osservare la condizione degli animali accanto a sé. Si indigna per un gioco praticato in Spagna che consiste nel tormentare un vecchio asino fino alla morte. Fa notare come solo la specie umana pratichi l'allevamento in segregazione di altre specie. Difende, in un articolo di giornale, il cane Ray, segregato e in procinto di essere ucciso per aver azzannato e ucciso un bambino. In un momento, scrive, di aberrazione, un momento che gli uomini, per sé, chiamano raptus. In un altro articolo definisce Brigitte Bardot la regina di Francia, perché, scrive, non v'è altro termine per descrivere la grandezza del suo coraggio, nello schierarsi dalla parte più misteriosa e disperata della vita vivente. Brigitte Bardot, che era stata derisa al telegiornale per il suo impegno in favore delle foche. «Vorrei non essere nata», scrive a un certo punto la Ortese. «Quello che si fa a un animale è per me un dolore continuo. Qui si sta dichiarando guerra alla vita». Ma Anna Maria Ortese, per fortuna, è nata, ha vissuto e ci trasmette con questo libro un forte messaggio di incoraggiamento a considerare la vita per quello che è, un mistero che condividiamo con tutti gli altri animali, con le piccole persone. Anna Maria Ortese, Le piccole persone, 271 pagine, editore Adelphi, 14 euro. Giuseppe, se golpe deve essere, facciamolo fino in fondo. Abbiamo fatto fuori la Camilla, facciamo fuori anche Gabriele Palloni, che dici? Eh sì, quindi in questa puntata mi occuperò, come un tempo, come all'inizio di questa trasmissione, del pasto gentile, in maniera un po' ironica, perché non voglio competere, anzi non posso competere col mitico cuoco vegano toscano che è Gabriele. Quindi che cosa hai pensato? Spara. Ho pensato una cosa dove alla base c'è il riciclaggio di quello che è avanzato, da dare agli amici, una cosina vegana che però apre un dilemma: cotto o crudo? Caspita, un dilemma da nulla. Questo è il dilemma. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Sfidiamo la sorte con un piccolo suggerimento dove tradizioni e novità si incontrano. Quindi vi propongo delle friselle con crema di anacardi. La cosa che ha bisogno di una preparazione più lunga è la crema di anacardi, che possiamo chiamare anche formaggio, ma siccome siamo ad agosto, quindi la chiameremo for agosto. Battutona! Ma sai, chiamiamola crema di anacardi. Ci vogliono 100 grammi di anacardi, non tostati e non salati, che bisogna ammollare per almeno 6 ore. Poi li scoliamo, li tritiamo finemente nel robot da cucina fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, un pizzico di sale, un po' d'olio di semi e qualche erba e spezie che più ci aggrada, come foglie di timo, un pizzico di curry o noce moscata oppure paprika affumicata. Frulliamo tutto rendendo la crema omogenea. Nel frattempo preparate le friselle ammollando una mezz'oretta prima con un po' d'acqua, altrimenti rischiate di passare le vacanze allo studio dentistico. In una ciotola tagliate dei pomodorini, a cui aggiungerete delle olive a pezzetti, uno spicchio d'aglio, delle foglie di basilico e condito con olio evo. Salate e mettete anche un po' di origano e lasciate lì. Per rendere il piatto più ricco e saporito, preparate o procuratevi, se non avete tempo, delle verdure grigliate di stagione tipo zucchine e melanzane. A questo punto non resta che mettere su ogni frisella i pomodori, le verdure grigliate e una noce della crema di anacardi. E se volete stupire con effetti speciali i vostri amici non vegani, aggiungete anche dei germogli. Un piatto completo e saporito per l'estate e il caldo che avanza. Buon appetito! Je sais bien qu'un jour nous nous reverrons et ça pour toujours. Laisse-moi te toucher, caresser ta peau, ça me fait rêver. Danser sur des rimes qui nous font vibrer. Je t'aime pour toujours, et ça tu le sais. You kiss it, that's so sweet. Che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia, il mondo canterà. Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police. I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa, Florida for his first offense burglary. I remember the police firing into crowds and killing children because they were wrong. Per lo spazio musicale di questa settimana ho pensato alla Camilla, ma non solo, anche alle nostre donne che accompagnano questo programma, che sono delle panchettone, anche se oramai travestite da brave signore. Parliamo degli MDC. Non vi traduco e non vi dico a che cosa corrisponde questo acronimo, perché ce n'ha vari e diversi. Sono un gruppo di hardcore punk di Austin, nel Texas, stabilitosi poi a San Francisco. L'impiego costante della sigla MDC nei titoli delle loro canzoni rende esplicite le loro idee antimilitariste, antiimperialiste, contro la brutalità poliziesca, contro la religione e contro la cultura americana. È un gruppo dichiaratamente anarchico e votato all'autoproduzione. Qui Camilla sicuramente si scioglie in brodo di giuggiole. Il quartetto non ha avuto vita facile, un po' a causa dell'instabilità dell'organico, naturalmente. Devono essere di tipo un po' sopra le righe. E un po' anche per la loro intransigenza. Hanno fatto negli anni 80, all'inizio degli anni 80, un brano vegan che si chiama Chicken Squad e che io vi propongo all'ascolto. Buon punk a tutti! Ah! kid got stuck. I said, hold on there, boy. When I walk into the store, they're selling chickens by the score. They eat dead birds just ain't for me. And I don't eat roast beef or fish. And pork ain't big, it's not my dish. Go ahead and let your chickens free. Chickens are the squirrels for new. Once you keep it those chickens to you, I don't take orders from girls down to you. And I don't want to eat no hens, not even every now and then. I just want to let all the little chickens be. We'll swing to the east, we'll swing to the west. Swing to the chicken that you love best. Come on down to the chicken farm with me. I'm wishing Daffy lots of luck, cause Elmer Fudd's a hunting duck and dreaming about a little fricassee. And Bugs Bunny's a friend of mine, eating him feel like Frankenstein. Eating flesh is pretty foul to me. Cooking chickens don't seem right, morning, noon, or late at night. Ain't no chicken ever done no harm to me. So on Thanksgiving or Christmas Eve, give those turkeys a reprieve. Ain't no turkey got to die for me. Well, swing to the east and swing to the west. Swing to the chicken that you love best. Come on down to the chicken spot with me. Buckle, Nugget, Mojo, Lisa, and NBC's okay with me. We learned how to let our chickens free. We burned the feathers, stick together. We set our chickens free forever. So go ahead and let your chickens be. Lordy, chins, must be the end. They got us eating our butts and friends and pants and bake those little chicken knees. We'll swing to the east, we'll swing to the west. We'll swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken walk with me. We'll swing to the east, we'll swing to the west. Swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken walk with me. Smart thing to do is be just plain chicken. Yeah. Hey you! Get out on this dance floor! E siamo giunti alla fine. Il golpe è compiuto. Diciamo che hanno partecipato alla trasmissione io due... e te. Te e nessun altro. E se vi è piaciuta, fatecelo sapere scrivendo a restiamoanimali@gmail.com. Siamo anche sul sito per scaricare questa puntata che rimarrà unica e inarrivabile, restiamoanimali.it. E quindi l'appuntamento è per la settimana prossima. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.